Roberto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Grazie Presidente, davvero rapido perché abbiamo un problema tecnico. Siccome andiamo incontro a votazioni stasera per il finanziamento pubblico ai partiti, noi abbiamo un malfunzionamento delle tessere solo del gruppo del Movimento 5 Stelle. Se potrebbe cortesemente controllare, perché abbiamo provato anche con le Boccadutri card firmate da Renzi. Per favore, assistenti. Ma non funzionano. Per favore, assistenti. Non funzionano. Allora, che derubate stasera senza una pezza d'appoggio. Presidente del Consiglio. Prego, questo non è l'ordine dei lavori, è il disordine dei lavori. Insomma, non ci si annoia mai, diciamolo in Parlamento, cari ascoltatrici, cari ascoltatori. Questo duetto che avete sentito era tra il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, Gianluca Castaldi. Avete sentito come quando si era in classe a scuola, se uno sbagliava qualcosa, ha detto se lei potrebbe, avete sentito quel coro, se potesse, il congiuntivo naturalmente, non il condizionale da usare. Insomma, comunque stava Castaldi protestando contro quello che sarebbe stato poi poche ore dopo, ed è stato l'approvazione definitiva dello sblocco del finanziamento ai partiti, naturalmente proteste, il Movimento 5 Stelle che ne ha fatto un cavallo di battaglia anticasta dall'inizio praticamente. Poi parleremo senz'altro di questo argomento questa sera qui a Effetto Notte con Peter Gomez, direttore del Fatto Quotidiano Online, ma gli argomenti sono molti. Purtroppo questa ondata di maltempo, si parla di 2 morti, 3 morti adesso a seconda dei siti e delle notizie, sto controllando man mano anch'io, ma poi approfondiremo questo argomento. Il maltempo che ha colpito soprattutto il centro, in particolare il Lazio e anche l'Abruzzo, è lì che ci sono 2 o 3 morti, e poi maltempo anche in Sicilia. Insomma, parleremo delle conseguenze tra poco di questa nuova ondata di maltempo e poi anche del pasticciaccio dell'Auditel. L'avete sentito in questi giorni che per un problema tecnico, per un baco come l'hanno chiamato, si sono scoperti i nomi di alcune famiglie che fanno parte di questo campione, in mezzo ai quali vengono rilevati gli ascolti, che dovrebbero rimanere segretissime anche per non inquinare i risultati, perché sapete poi c'è tutto l'interesse degli investitori, la pubblicità eccetera, per cui sono questioni molto delicate. L'Audit ha deciso di sospendere per 2 settimane la diffusione dei dati d'ascolto. Parleremo di un sacco di cose, insomma, poi vi riassumo tra poco, faccio la sintesi della giornata. Voi non staccatevi neanche un attimo da Effetto Notte e anche, se volete, dalla pagina Facebook di Effetto Notte o dal 349-238-6666, che sono i vostri 2 canali per intervenire. Quindi pagina Facebook di Effetto Notte, oppure potete inviare gli sms al 349-238-6666 se volete questa sera proprio sulla vicenda del sblocco del finanziamento ai partiti. Potete fare i vostri commenti tranquillamente. Intanto vi racconto la giornata. Maltempo, una donna muore travolta da una frana in Abruzzo, un morto anche nel Frosinate per l'esondazione dell'Aniene. Roma, fori imperiali solo per i pedoni, è l'ultimo atto di Marino prima dell'addio. Finanziamento ai partiti, approvati il DDL Boccadutri con 148 sì e 44 no, protestano i 5 Stelle. Nuovo centrodestra, il coordinatore Quagliariello dà le dimissioni, Alfano commenta, io non trattengo nessuno. L'inchiesta sulle tangenti in Lombardia, Salvini contro i magistrati, è un attacco politico, dice, colpiti perché cresciamo. Legge di stabilità per la flessibilità in uscita dal lavoro, ipotesi part-time per gli over 63 dal 2016. Figli in affido, si della Camera al disegno di legge che assicura una corsia preferenziale ai genitori affidatari per le adozioni. Unioni civili, secondo fonti della maggioranza, l'avvio del disegno di legge sarà a gennaio 2016, dopo il via libera definitivo alla legge di stabilità. Nuovo mea culpa del Papa, Bergoglio chiede perdono per i mali della Chiesa. Ascolti TV, Auditel sospende la diffusione dei dati per 2 settimane. Partiamo quindi ovviamente dal maltempo con le prime gravi conseguenze di questa ondata. 2 vittime nel centro Italia, una donna è morta nella sua automobile a Paliano in provincia di Frosinone, un'altra donna è stata travolta da una frana in provincia dell'Aquila. Situazione grave anche vicino Roma, a Tivoli, dove si trova Andrea Delisa della Protezione Civile di Tivoli, intervistato da Livia Liberatore. Abbiamo avuto un'esondazione del fosso Resicoli, affluente di sinistra dell'Aniene, che ha bloccato l'ingresso a Tivoli da via Maremmana. Via Maremmana è rimasta bloccata con diverse persone con le auto in panne. Sono state messe in salvo, è arrivato il mezzo anfibio dei Vigili del Fuoco con il reparto SAF per mettere in sicurezza le persone che erano rimaste sui tetti delle industrie. Noi siamo riusciti a recuperare una persona che stava sul tetto di una pensilina della fermata dell'autobus e più, siamo riusciti a trainare due macchine che erano in panne in mezzo all'allagamento col fiume in piena. Poi ritorneremo naturalmente sul tema del maltempo. Intanto però sentite qual è stato l'ultimo atto di Marino da sindaco dimissionario. Qualcuno l'ha definita l'ultima sfida del sindaco chirurgo. Sicuramente sarebbe la realizzazione di uno dei suoi sogni, cavallo di battaglia della sua campagna elettorale, la pedonalizzazione totale di Via dei Fori Imperiali da Piazza Venezia al Colosseo. Marino sarebbe al lavoro in questi ultimi giorni del suo mandato per accelerare sul progetto. Al momento Via dei Fori Imperiali è off limits solo per le auto e parzialmente per i taxi, mentre i mezzi pubblici la percorrono integralmente con più linee. L'Agenzia della Mobilità ha già studiato da tempo soluzioni alternative che tra l'altro già sono state utilizzate per alcuni periodi limitati, come per il Natale di Roma e altre festività. Il sindaco è al lavoro per chiudere la partita entro 2 settimane per rendere operativo tutto in vista del giubileo, offrendo così ai turisti e fedeli una straordinaria passeggiata nella storia. I tempi sono stretti, la pedonalizzazione dovrà ovviamente passare attraverso una serie di atti amministrativi. Annerita Rambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E intanto fa discutere un nuovo scandalo, questo degli appalti truccati a Roma. È stata bloccata anche una gara per il giubileo. Denaro in cambio di informazioni riservate su imprese invitate alle gare d'appalto per la manutenzione e la sorveglianza delle strade della grande viabilità di Roma Capitale per controllarne i meccanismi di aggiudicazione. Questa è l'ipotesi investigativa che ha portato i carabinieri all'arresto ai domiciliari di 2 imprenditori, Luigi Martelli e Alessio Ferrari, e di un funzionario comunale, Ercole Lalli. L'accusa è di corruzione e turbata libertà degli incanti. Il tenente colonnello Fabio De Rosa, comandante della sezione operativa dei carabinieri tutela ambientale. Sostanzialmente è stato accertato come il funzionario si sia fatto consegnare una somma di 2.000 euro in contanti da questi 2 imprenditori e come contropartita gli abbia fornito delle informazioni riguardanti gli appalti dei lotti di manutenzione, strade e sorveglianza della rete viaria di Roma Capitale. In base alle verifiche dell'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, gli imprenditori arrestati sono titolari di 2 ditte, nonché soci occulti, che hanno partecipato alla prima gara che il Comune di Roma ha aggiudicato per i lavori del giubileo, per la manutenzione e la riqualificazione di via Mura Latine e viale di Porta Ardeatina. L'aggiudicazione parziale effettuata dal Comune in data 9 ottobre è stata però bloccata ieri dall'ANAC. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La politica con il finanziamento ai partiti. È stato approvato il disegno di legge Boccadutri poco fa, con 148 sì, 44 no, che sblocca i fondi per i partiti, fondi che erano già decisi ma non erogati, perché nonostante siano state ottemperate tutte le disposizioni di legge per ottenerli da parte dei partiti, la commissione di garanzia che doveva valutare i bilanci dei partiti non è riuscita a portare a termine questi controlli per mancanza di personale, hanno protestato i 5 Stelle. Sulle unioni civili il disegno di legge è stato incardinato in aula del Senato, secondo fonti della maggioranza però l'avvio dell'esame ci sarà non prima di gennaio 2016. Intanto è scontro nel nuovo centrodestra tra Quagliariello e Alfano. Nonostante la contrarietà di centristi e Forza Italia, al Senato viene incardinato in aula il disegno di legge sulle unioni civili. Il suo esame però slitta in attesa della sessione di bilancio, non potrà quindi arrivare prima di dicembre o gennaio. Il via libera al testo, sul quale nella maggioranza restano le distanze fra Partito Democratico e Nuovo Centrodestra. Il punto più controverso è quello che riguarda la possibilità per una coppia gay di adottare il figlio avuto in precedenza da uno dei due partner. Contrari i centristi dicono no anche all'ipotesi di un affido temporaneo, così Lupi. Gli italiani come noi non vogliono che si tolga il diritto ad un bambino di avere un papà ed una mamma, non si possono usare le unioni civili e in questo caso noi saremo molto duri e molto chiari. Proprio nel nuovo centrodestra intanto scoppia il caso Quagliariello, che oggi si è dimesso da coordinatore nazionale e ha minacciato di formare un nuovo gruppo parlamentare se il partito non romperà l'alleanza con il PD. Secca la replica di Alfano, io non trattengo nessuno, ha detto il leader di NCD. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E poi c'è stato il sì della Camera anche alle adozioni per i genitori affidatari, cioè le famiglie affidatarie godranno di una corsia preferenziale per l'adozione del minore che è loro affidato. Se dichiarato il suo stato di abbandono sia impossibile ricostruirne il rapporto con la famiglia d'origine, lo prevede la legge sul diritto della continuità affettiva definitivamente approvata oggi appunto dalla Camera. Siamo all'economia con le ultime limature per la manovra finanziaria. Sulle pensioni è possibile un anticipo di flessibilità. Palazzo Chigi al lavoro per definire gli ultimi dettagli della manovra che dovrebbe avere un impatto sull'economia da 25-28 miliardi di euro. Nella bozza del provvedimento trova conferma l'innalzamento del limite per l'utilizzo del contante che sale da 1.000 a 3.000 euro. È un modo per aiutare i consumi, spiegano ancora da Palazzo Chigi, non si favorisce l'evasione fiscale perché quei soldi sono comunque tracciati. Via libera poi al pacchetto fiscale, taglio di IMU e TASI sulla prima casa, anticipo IRES al 2016, sì ai superammortamenti per chi investe in azienda. Un pacchetto questo da 7 miliardi che arriveranno dalla spending review, altri 3 miliardi sarebbero garantiti dal rientro dei capitali. Il resto delle coperture sarebbe affidato in larga parte alla flessibilità europea, 16 miliardi circa utili per mettere la parola fine alle eredità delle passate manovre a partire dalle clausole di salvaguardia. Tra le scelte delle ultime ore vi è quindi il capitolo previdenza con il nodo degli esodati e un anticipo di flessibilità con l'ipotesi del part-time, indicizzazione delle pensioni, contratti pubblici, credito d'imposta per le ristrutturazioni, alcune delle altre misure. Quanto ai neoassunti, confermata la proroga della decontribuzione, ma dall'INPS avvertono lo sgravio ha già portato un mancato introito tra gennaio e settembre di oltre un miliardo. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Tra l'altro qui da indiscrezioni, da fonti, come si dice, si legge che la manovra, alla vigilia insomma della sua approvazione, potrebbe essere tra i 27 e i 30 miliardi. Per quanto riguarda invece l'economia americana, la situazione dell'economia resta caratterizzata da una modesta crescita, lo afferma la Fed, la Banca Centrale Americana, nel suo rapporto periodico, sottolineando come il mercato del lavoro in America continua a migliorare con uno scarso impatto sulla crescita dei salari, mentre le imprese sono colpite dal rafforzamento del dollaro. Passiamo adesso al nuovo mea culpa di Papa Francesco per i mali della Chiesa, lo ha pronunciato a sorpresa oggi durante l'udienza generale dedicata ai bambini. Nessun riferimento politico agli scandali del Campidoglio, poi precisato il portavoce Vaticano Lombardi, e quindi c'è stato questo mea culpa sui mali della Chiesa. Io vorrei, prima di iniziare la catechesi, in nome della Chiesa chiedervi perdono per gli scandali che in questi ultimi tempi sono accaduti sia a Roma che in Vaticano. Vi chiedo perdono. Ne parliamo con Carlo Marrone. Carlo, una tua riflessione su questa nuova richiesta di perdono che mi sembra Papa Bergoglio abbia un po' abituato, no? I cittadini del mondo, non so, i credenti, non credenti, a queste richieste di perdono, a queste scuse. Sì, certo, però quasi sempre erano mirate su vicende specifiche, lo ha fatto in molte occasioni su vari argomenti. Oggi lui parlava di bambini, quindi è presumibile, perché lui non ha chiarito, e neanche Padre Lombardi. Si parla di pedofilia? Ecco, non è presumibile, però diciamo così, né il portavoce né tantomeno il Papa ha chiarito su cosa stesse parlando, perché il riferimento è preciso, lui ha detto a Roma e in Vaticano, quindi però escluso che si tratta di Roma inteso come le questioni civili di Roma, il sindaco o le ruberie che ci sono anche oggi pescate o presunte tali, Papa ha parlato degli scandali in generale, ce ne sono un paio, soprattutto uno, questa è una presunzione che stiamo facendo, che riguarda un ordine religioso, i carmelitani, che a Roma hanno avuto un problema riguardante un presunto, diciamo, una presunta questione di omosessualità gay, con vicende insomma molto torbide e complesse che hanno anche portato a proteste dei cittadini di quell'area nel centro di Roma. Questa è una vicenda molto grossa a Roma che sta facendo rumore e presumibilmente può essere una di quelle a cui ha pensato il Papa. Grazie Carlo Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore. Grazie. Ciao Carlo. Ciao. Adesso per chiudere andiamo invece sulla questione dei dati Auditel. Dopo quel disguido tecnico, vi dicevo, che ha portato a rivelare l'identità di 4.000 famiglie su 5.700 che costituiscono questo campione di Auditel, la società ha deciso che per un periodo di 2 settimane non renderà pubblici i dati prodotti, riservandoli soltanto alle emittenti, quindi alle televisioni, per l'analisi dei palinsesti, non saranno resi pubblici. Ne parleremo dopo e cercheremo di capire anche che cosa possa comportare questa scelta e questo, chiamiamolo appunto, disguido. Intanto, prima di lasciarci brevemente per aggiornare chi sta viaggiando, volevo guardare i vostri messaggi. messaggi rispetto all'approvazione definitiva di questo disegno di legge sblocca finanziamenti ai partiti. Sulla pagina Facebook di Effetto Notte Marco scrive: i cittadini non contano niente, abbiamo votato con referendum contro i finanziamenti ai partiti e trovano il sistema per prenderli, adesso non hanno i bilanci a posto e si fanno la leggina per prendere i finanziamenti lo stesso, si devono vergognare, scrive Marco. Giuseppe: siamo al famoso gioco delle tre carte, come ti giri te la rigirano. Mi pare che sia invece bloccato il numero 349-238-6666, no, si è sbloccato, dice Anna. Il Papa l'imbarazzo della scelta in materia di scandali, e poi molti altri messaggi, però leggerò dopo. Smau ti aspetta a Milano 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme con i vostri messaggi al 349-238-6666 sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Mario scrive: non hanno i bilanci a posto, non dovrebbero prendere i finanziamenti. Marco detto Mario, ci tiene a sottolineare come viene anche detto. Parleremo di questo argomento, ma prima ci occuperemo tra pochissimo del maltempo e del fatto che abbia già purtroppo fatto due vittime, se non tre. Adesso non sono chiare notizie, ma tra poco ci aggiorneremo con la collega Livia Zancaner. Intanto vi ricordo, se avete acceso la radio in questo momento, anziché puntualmente alle 21, quali sono le notizie più importanti della giornata. A parte appunto questa ondata di maltempo, la legge di stabilità, si parla di un'ipotesi part-time per gli over 63 al posto dell'uscita anticipata. Un provvedimento domani nel Consiglio dei Ministri, questo a partire dal 2016. Poi per le unioni civili continua il caos all'interno della maggioranza. Nel frattempo il coordinatore del nuovo centrodestra Quagliariello lascia il partito con dimissioni in una lettera scritta ad Alfano che dice: io non trattengo nessuno. Poi tangenti per il Giubileo, Cantone, capo dell'anticorruzione, ferma la gara di manutenzione per le strade. Intanto Maroni, dopo l'arresto ieri del suo vicepresidente regionale Mantovani, dice la giunta non è a rischio. Ultimo atto di Marino, fori imperiali, tutti pedonali a Roma. E poi il Papa: chiedo perdono per gli scandali recenti di Roma, ne abbiamo appena parlato. E per chiudere, i dati Auditel di cui parleremo tra poco. Invece il tema purtroppo è quello del maltempo, le notizie sono piuttosto recenti, c'è Livia Zancaner, proprio in serata poco prima dell'inizio di Effetto Notte ci sono stati i primi morti, no? E speriamo gli ultimi anche, Livia. Sì, buonasera Roberta, allora bisogna dire che le notizie sono ancora ovviamente frammentate. La prima vittima è di 40 anni a Paliano, in provincia di Frosinone, secondo appunto le prime informazioni la vettura su cui viaggiava è stata travolta da una frana ed è finita in una voragine, il corpo senza vita è stato estratto dai vigili del fuoco, in auto c'erano altre due persone che sono riuscite a uscire dalla vettura e quindi a salvarsi. Due invece morti in provincia dell'Aquila, a Civitella Roveto, una donna di 51 anni è stata travolta dal crollo di un muro di contenimento della sua abitazione che ha ceduto a causa proprio delle piogge incessanti di tutta questa giornata. Anche lei soccorsa dai vigili del fuoco, non c'è stato più nulla da fare, con lei ferito un giovane di 25 anni ma non sarebbe grave. A Tagliacozzo un uomo è morto colpito da un fulmine mentre stava togliendo l'acqua dalla cantina della sua casa. La situazione è critica anche a Tivoli, alle porte di Roma, dove è esondato il fiume Aniene. Diverse persone si sono rifugiate sui tetti, alcune sono già state salvate. Cantine e garage sono allagati. I pompieri ovviamente sono al lavoro con un elicottero, idrovori e anfibi. Oltre 140 gli interventi effettuati già nella zona. Pioggia battente anche ai castelli romani. E poi problemi soprattutto anche per i pendolari. Frana sulla tratta ferroviaria Roma Cassino, A1 allagata a Monteporzio, allerta rossa per domani in tutta la Sicilia per rischio idrogeologico, quindi scuole, asili, università chiuse a Catania, ma anche a Trapani, Agrigento e molti centri del Messinese. È tutto. Grazie Olivia Zancaner, ciao Olivia. Invece ci concentriamo su questo pasticciaccio di dati Auditel, cioè del rilevamento dei dati d'ascolto. Chissà quanti anni sentite parlare di questo, perché l'Auditel, questa società, è stata costituita nel 1984 e ha come oggetto appunto la rilevazione imparziale, oggettiva, scientifica, si dice, dell'ascolto TV in Italia, della sua diffusione sistematica dei dati, insomma diffusione dei dati, che però ha subito un disguido tecnico negli scorsi giorni che ha portato a rivelare l'identità un'età di 4.000 famiglie su 5.700 che compongono questo campione. Ne parliamo con Andrea Biondi del Sole 24 Ore. Ciao Andrea. Buonasera, buonasera a voi. Quindi, diciamo, per i comuni mortali forse potrebbe sembrare una cosa, diciamo, sì, un po' misteriosa, un po' strampalata, ma nulla di particolarmente grave, però ha degli aspetti piuttosto gravi questa cosa. Ha degli aspetti gravi nella misura in cui si considera che l'Auditel, si possa considerare che l'Auditel è il fulcro attorno al quale gira il mercato pubblicitario televisivo. Ricordiamo che la TV intercetta il 58%, intorno al 60% degli investimenti pubblicitari totali. Quindi bloccare le rilevazioni, non dare al mercato la possibilità di avere i dati di audience, rappresenta un autentico dramma, insomma, per questo mercato. Perché l'avevo detto all'inizio, scusa Andrea, lo ripetiamo qui, che dopo questo disguido Auditel ha dato notizia oggi in una nota che sospenderà per 2 settimane, per 15 giorni, la diffusione di questi dati, non alle emittenti TV, però così pubblicamente non... Questi dati non potranno essere utilizzati però neanche dalle emittenti TV nei rispettivi menage pubblicitari, cioè nel senso che i contratti pubblicitari che ora vengono effettuati con il meccanismo del POST, cioè io ti vendo un qualcosa convinto che quel qualcosa abbia una determinata audience, quel programma abbia una determinata audience, esatto, se quel programma va su in qualche modo l'investitore dovrà pagare di più, se ha un audience inferiore invece in qualche modo sarà il broadcaster a dover pagare di più, l'emittente a dover pagare di più. Ora è chiaro che senza il dato di audience questo meccanismo viene meno, cade del tutto. È chiaro che è una situazione veramente limite, è una situazione veramente limite perché è venuta meno la segretezza di oltre 2/3 del campione. E quindi la situazione è difficile da questo punto di vista da gestire. Ci spieghi Andrea come questo meccanismo si chiama Meter, una specie di apparecchietto che danno l'Auditel dà alle famiglie, è un po' complesso spiegare come funziona, però da lì si rileva che cosa stanno guardando, a che certo, ora. Certo, ci sono due tipi di meccanismi. Allora, uno si chiama People Meter Panel e praticamente è l'Auditel tradizionale, cioè sono queste 5.700 famiglie che hanno questo apparecchietto che permette di verificare diciamo l'audience, di verificare ciò che una famiglia vede e tutto si basa sull'utilizzo di un telecomando. Ogni membro della famiglia ha diciamo accesso a un tasto che lo identifica e quindi in quel modo si capisce la rilevazione. Adesso Auditel ha deciso di aumentare, di ampliare questo panel aggiungendone altre 10.000 per fare il super panel con 15.700, tenendo però come base tecnica un altro tipo di meter che è il set meter panel, che non farà, con il quale non si farà uso del telecomando, ma diciamo che la rilevazione, ecco, al di là degli aspetti tecnici, anche senza il telecomando si riuscirà a rilevare ciò che la famiglia sta in quel momento guardando. Quindi questo è un po' dal punto di vista tecnico quello che succede alle famiglie che si trovano davanti alla TV e che sono le famiglie oggetto del campione Auditel. Quindi loro intanto, le famiglie stesse, devono mantenere segretissima questa attività che svolgono, evidentemente. Poi perché è così rischioso? Perché si inquinano i risultati se le famiglie, se vengono fuori i nomi di queste famiglie, possono subire pressioni? Assolutamente sì, possono subire pressioni, ci possono essere accordi, ci possono essere, come dire, comportamenti oggetti di corruttela, può essere una qualsiasi cosa in teoria. Bisogna dire questo, che Nielsen, che è la società che materialmente cura la rilevazione per Auditel, ha capito subito l'errore ed è arrivata subito, diciamo, si è messa subito in moto, tant'è che nei giorni scorsi, come abbiamo rivelato oggi sul Sole 24 Ore, hanno anche inviato una lettera ai consiglieri d'amministrazione per spiegare sostanzialmente una cosa, che in questi giorni, consideriamo che l'errore è stato compiuto il 1° di ottobre, che in questi giorni non avrebbero verificato un cambiamento nei cosiddetti comportamenti di visione, viewing behaviors, nei comportamenti di visione, insomma. E quindi, non avendo verificato questi cambiamenti, in qualche modo hanno cercato di circoscrivere la questione. Alcuni consiglieri d'amministrazione hanno considerato la cosa assolutamente insufficiente, perché è un po' come il cuoco che dice che la minestra è buona, seppure dicendolo sulla base di dati che ha portato. Altri hanno sinceramente tirato un sospiro di sollievo, perché, ripetiamolo, alla fine questo meccanismo, l'Auditel, è il meccanismo e il fulcro attorno al quale gira il mercato pubblicitario televisivo. E certo, perché gli investitori devono sapere quel programma come va, va bene, allora li investo con la mia pubblicità, no, altrimenti non ci investo. Altrimenti non ci investo. E quindi adesso comunque hanno preso, è stata scelta questa soluzione, è stato scelto sostanzialmente di non decidere e quindi di attendere delle verifiche tecniche, legali, per capire insomma come fare. Di sicuro il campione sarà cambiato totalmente nel caso in cui, diciamo, Auditel fra 15 giorni, come è pensabile, decidesse di continuare con la rilevazione. Il campione sarà comunque cambiato, sarà cambiato a spese di Nielsen, quindi Auditel non avrà spese aggiuntive. E in quel caso lì, insomma, comunque alla fine Auditel continuerà a fornire i dati, le rilevazioni, qualcuno sarà più contento, qualcuno sarà meno contento, però probabilmente sarà questo un po' l'esito della vicenda. Una vicenda, ripeto, che comunque non era mai successo, e anche 15 giorni adesso senza dati di audience. Come faranno i sezionisti? Come fanno a decidere? Beh, insomma, già abbiamo visto che ci sono dei commenti, comunque non parliamo degli inserzionisti, ma Mediaset ha detto è un vuoto grave per il mercato degli investitori, possiamo reggere giusto queste due settimane, non oltre. Allora, due aspetti, diciamo, l'aspetto più serio, tra virgolette, cioè quello degli investitori pubblicitari e dei broadcaster. Mediaset è chiaro che la sua attività, l'attività di Mediaset è prevalentemente legata agli investimenti pubblicitari, alla raccolta pubblicitaria, di conseguenza Mediaset è il principale colpito da questa cosa. Differente il discorso per emittenti, per broadcaster come Sky, in cui, per dire, per i quali gli investimenti pubblicitari pesano per l'8% dei ricavi, oppure per la Rai che ha il canone, la 7 Mediaset è chiaro che sono più colpiti, diciamo, questo è l'aspetto. Ho visto che insomma ci sono stati i primi commenti da parte di personaggi del mondo dello spettacolo, dice vabbè, allora a questo punto ci sveglieremo più tardi. Carlo Conti mi sembra che detto Carlo Conti ha detto sì, ci sveglieremo più tardi. Non avremo bisogno di leggere subito la mattina, oddio come sono andato. Sarà curioso capire quanto effettivamente questi dati rimarranno segreti e secretati. Ma si sa che i segreti di Pulcinella. Grazie Andrea Biondi. A voi. Grazie, ciao. Grazie. Buona serata. E noi, prima di lasciarci per questa breve pausa, volevo vedere ancora qualche vostro messaggio. Gianfranco da Sassari dice: la legge Cirindà, che è quella sulle unioni civili, alle calende greche un favore ad Alfano, in compenso è immediata la legge per papparsi 45 milioni di fondi di leggi, dice. Ipocriti, mi fanno schifo, sono dei pezzenti. In prima fila il Presidente del Consiglio, a seguire gli altri, esclusi 5 Stelle, che sono coerenti con quello che hanno promesso in campagna elettorale. Tra poco parleremo proprio dei finanziamenti ai partiti. I centri ottici Green Vision ti aspettano per il controllo gratuito della tua efficienza visiva. Greenvision.it vi presenta. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, Roberto Giordano sempre con voi, voi con me qui a Effetto Notte, con i vostri messaggi anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte, oppure gli sms al 349-238-6666. Fra i tanti argomenti, tra poco ne parleremo poi in modo più dettagliato, anche quello del finanziamento ai partiti. C'è stato lo sblocco ai fondi per i partiti con questo disegno di legge approvato definitivamente stasera al Senato. Joe scrive: dovrebbero dare il buon esempio. Elena dice: sono disgustata. E poi altri messaggi che vi leggerò dopo con l'ospite che vi presenterò tra pochissimo. Intanto vi ricordo, se avete acceso la radio in questo momento, quali sono le notizie più importanti della giornata. L'ondata di maltempo, soprattutto nel centro, con una donna morta travolta da una frana in Abruzzo e un morto anche nel Frosinate per l'esondazione dell'Aniene. Poi Roma, fori imperiali solo per i pedoni e l'ultimo atto di Marino prima dell'addio. Finanziamento ai partiti, approvato il DDL Boccadutri con 148 sì e 44 no. Nuovo centrodestra, il coordinatore Quagliarello dalle dimissioni. Alfano commenta: io non trattengo nessuno. L'inchiesta sulle tangenti in Lombardia, Salvini contro i magistrati, è un attacco politico, dice, colpiti perché cresciamo. diciamo. Legge di stabilità per la flessibilità in uscita dal lavoro, ipotesi part-time per gli over 63 dal 2016. Figli in affido, sì, della Camera al disegno di legge che assicura una corsia preferenziale ai genitori affidatari per le adozioni. Unioni civili, secondo fonti della maggioranza, l'avvio del disegno di legge sarà a gennaio 2016, dopo il via libera definitivo alla legge di stabilità. E poi avete sentito il nuovo mea culpa del Papa, Bergoglio chiede perdono per i mali della Chiesa. Ascolti TV, ne abbiamo appena parlato, Auditel sospende la diffusione dei dati per 2 settimane. Grazie Presidente, davvero rapido perché abbiamo un problema tecnico. Siccome andiamo incontro a votazioni stasera per il finanziamento pubblico ai partiti, noi abbiamo un malfunzionamento delle tessere solo del gruppo del Movimento 5 Stelle. Se potrebbe cortesemente controllare, perché abbiamo provato anche con le Boccadutri card firmate da Renzi. Per favore, assistenti. Ma non funzionano. Per favore, assistenti. Non funzionano. Allora, i soldi che derubate stasera senza una pezza d'appoggio. Presidente del Consiglio. Prego, questo non è l'ordine dei lavori, è il disordine dei lavori. Avete sentito il disordine in Parlamento, ve l'ho fatto sentire un po' come incipit all'inizio di Gianluca Castaldi, capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, che insomma di questa enfasi di rabbia per l'approvazione di questo disegno di legge, ha detto se lei potrebbe, ecco, tutti l'hanno corretto come in una classe scolastica, insomma, col se potesse, con il congiuntivo. Ma il succo della questione qual è? Che passa questo finanziamento pubblico ai partiti, in realtà è stato approvato il disegno di legge Boccadutri dal primo firmatario, che è un deputato del PD, con 148 sì e 44 no, hanno protestato i 5 Stelle, come avete sentito. E che cosa è successo? Che circa un mese fa questo disegno di legge per sbloccare i fondi ai partiti già decisi, questi fondi erano già decisi, li ha sbloccati questo disegno di legge, oggi è arrivato al Senato per l'approvazione definitiva. In realtà il finanziamento pubblico ai partiti, se ricordate, era già stato abolito dal governo Letta, era previsto che dal 2017 non ci sarebbe stata più una lira tranne donazioni private e 2 per 1000. Quindi questi fondi erano già stati decisi ma non erogati, perché doveva esserci prima un controllo dei bilanci dei partiti da parte della commissione di garanzia, la quale però, essendo oberata di lavoro, a un certo punto ha detto io non ce la faccio, come si fa? E quindi si è trovato questo escamotage con questo disegno di legge, diceva vabbè, sblocchiamo lo stesso anche senza i controlli. E proteste, del Movimento 5 Stelle, commenti vari. Ne parliamo con Peter Gomez, direttore del Fatto Quotidiano Online. Ciao Peter, buonasera. Buonasera a voi. Quindi ti leggo solo 2 messaggi dei vari che arrivano per dire quali sono i diversi punti di vista. Allora Franco dice: la democrazia ha un costo, chi è contro il finanziamento pubblico è contro la democrazia. Mentre un altro ascoltatore che non si firma dice: per il reddito di cittadinanza e disoccupati e senza lavoro non ci sono mai soldi e tutti in disaccordo, l'Italia è come il Burundi. Queste sono le 2 posizioni, no? Chi dice che comunque assicura la democrazia il fatto che i partiti abbiano dei soldi per poter funzionare, e chi dice invece per loro ci sono sempre i soldi, per le altre cose prioritarie no. Non è questa la discussione questa sera. Qua ci sono dei partiti che non hanno rispettato le regole, o apparentemente non siamo in grado di sapere se le hanno rispettate. Hanno stabilito il governo Letta che saranno aboliti in gran parte i finanziamenti pubblici al 2017, si era detto per darvi questi soldi, questi 45 miliardi, i vostri bilanci dovranno essere sottoposti a un controllo. Alla commissione non sono state date le forze sufficienti per esaminare questi bilanci. In un posto normale cosa si sarebbe fatto? E c'erano anche emendamenti in questo senso. Si sarebbe dato una proroga da una parte sul controllo, si sarebbe detto aspettate un attimo, non vi diamo i soldi, diamo un po' più personale alla commissione, perché poi sono dei bilanci di partito, voglio dire, non è che serviva un esercito, aspettiamo un attimo prima di darvi i soldi ve li diamo fra qualche mese. O meglio ancora, si poteva anche fare: vi diamo solo una parte di quei 45 miliardi, ve ne diamo 10 e in attesa che terminiamo il controllo. No, invece si è semplicemente deciso di dare i soldi senza nessun controllo. Allora, si può essere, come dice lo ascoltatore, una posizione legittima a favore del finanziamento pubblico ai partiti, però chiunque ha un minimo di memoria storica in questo paese sa che tutte le volte che ci sono le fusioni abusive da parte dei partiti che commettono un reato arriva la sanatoria. Che tutte le volte che si parla di soldi rispetto alla classe politica arriva la deroga alla regola. Allora, se qua, se chi fa le leggi non le rispetta, è un po' duro chiedere ai cittadini di rispettarle altrettanto, perché non succede la stessa cosa quando un signore deve presentare il suo bilancio a una certa data, la sua dichiarazione dei redditi e tutto il resto. La disparità è evidente, poi possiamo essere a favore, contro, eccetera. L'hanno fatta, hanno fatto la bella, e ciascuno di noi è autorizzato a pensare che qualcuno tra di loro l'abbia fatto apposta, perché i loro bilanci non sono tanto belli, come ci insegnano i casi degli scontrini, eccetera. Peter, senti, invece sulla questione delle dimissioni di Quagliariello, ti faccio sentire prima Quagliariello, coordinatore nazionale del Nuovo Centrodestra, che però in una lettera ad Alfano ha dato le dimissioni, e poi la replica di Alfano. Sentiamo. È accaduto che se prima eravamo in due a ballare l'Alligalli, adesso ci troviamo in quattro a ballare l'Alligalli, perché la dialettica interna al PD si è approfondita al punto da esigere mediazioni come se si trattasse di due partiti diversi, e perché proveniente dal centrodestra è nata una forza, frutto di una autoproclamata operazione parlamentare, almeno al momento priva di un retroterra territoriale, con l'esplicita ragione sociale di supportare il Premier Matteo Renzi nel percorso delle riforme. Ho sempre detto, non ho forzato nessuno per entrare nel Nuovo Centrodestra quando c'era da avere un gesto di coraggio, non trattengo con forza nessuno, quindi questa è la impostazione che io ho sempre dato. Di certo c'è che se tiro la riga dopo due anni di sacrifici per il bene dell'Italia, io ho un saldo molto positivo, noi abbiamo un bilancio molto molto in attivo. Quindi questi mal di pancia, Peter Gomez, Quagliariello dice se non, il Nuovo Centrodestra non si allontana da Renzi, minaccia insomma di formare un altro gruppo parlamentare, non so adesso a che numero sono arrivati di gruppi parlamentari. Partiamo dal Fano, che ha detto la verità. Certamente lui ha un bilancio straordinariamente positivo, perché è un partito che raccoglie a stento, e forse non lo raccoglie più, il 3% riesce a ottenere sostanzialmente il secondo ministero più importante del governo, che è quello degli interni. Altro che positivo, diciamo, è un attivo straordinario. Per il resto stiamo assistendo solo a una guerra in Parlamento di posizionamento rispetto alla possibilità di rientrare, a nient'altro, voglio dire, al netto della questione dei Verdini. Si capisce oggi che con questa legge elettorale, se non verrà cambiata, l'NCD di parlamentari ne prenderà molto pochi. Quelli che eventualmente può ospitare il PD sono pochissimi, e quindi una serie di parlamentari si stanno riposizionando cercando di pensare al loro futuro. C'è ben poco di ideologico in tutto questo. Le unioni civili per esempio non c'entrano niente, no? Il fatto di spostarsi più, che so, verso certo. Renzi. Se uno, dato che deve fare il 3%, uno pensa magari vado a occupare quel tipo di posizione, eccetera. Oddio, è rispettabilissimo rappresentare una posizione che esiste nel paese, che io non condivido, sul no alle unioni civili, alle coppie gay o alla prudenza, cioè, non c'è niente di male nel farlo. Però dopo torniamo agli esempi, alla coerenza, lo sappiamo storicamente cosa è avvenuto in questo paese rispetto a chi rappresentava certe posizioni. Diciamo che erano molto amanti della famiglia, perché di solito ne avevano più di una, non tutti, ma spesso accadeva così. Peter, per chiudere, giusto quello che ha detto oggi Maroni, presidente della Regione Lombardia, dopo quello che è successo ieri, l'arresto del suo vicepresidente Mantovani. L'asta è stata annullata, ci sono in corso accertamenti per valutare la regolarità dell'annullamento, ma ad oggi, ripeto, dagli accertamenti che abbiamo fatto non risultano tangenti pagate per la sanità in Lombardia. E quindi lei non sente la sua giunta a rischio per questo intervento? Assolutamente no. Domani faremo la riunione con tutti i membri della maggioranza, consiglieri regionali, e credo che da questa vicenda anzi possa ripartire un'azione più forte del centrodestra, perché quando sei sotto attacco ti unisci, ti ricompatti e rilanci. Un commento e poi ti lascio, Peter. E al di là della valenza penale della vicenda, chi ha letto le carte si è reso conto che c'era chi chiedeva che l'asta venisse annullata perché venivano escluse delle onlus che facevano capo a certi territori che erano dei bacini di voti. Questo è oggettivo, voglio dire. Questo era, poi è un reato, non è un reato, non lo so. però la politica i voti li controlla anche così. Io penso che il centrodestra dovrebbe ripartire dalla destra storica, e la destra storica tradizionalmente ha le mani pulite ed è per la legge e l'ordine. Non sono sicuro che questi siano il tipo di rappresentanti che uno si immagina a destra. Grazie Peter Gomez. Ciao Peter. Grazie, arrivederci. Ciao, buona serata, buon lavoro. Viabilità tra poco. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta... Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E dunque, ecco, stavo guardando i vostri messaggi, intanto mi immergo in quello che scrivete sia nella pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete continuare ad aderire senza indugio, oltre a scrivere le vostre opinioni, e anche gli sms al 349-238-6666. Angela dice: la democrazia costa, ma i partiti attuali, tranne i 5 Stelle, non sanno neppure dove sta di casa, a loro interessano solo soldi e poltrone. Poi Roberto da Modena: forse speriamo 45 milioni, non miliardi, lapsus di Gomez a proposito dei soldi dei partiti. E poi un altro messaggio, però forse dobbiamo prima dare precedenza ai titoli, poi c'è anche lo spazio europeo, ecco, non vorrei come al solito andare di corsa, quindi vi ricordo quelli che sono i titoli principali della giornata. Oltre al maltempo che ha provocato già due vittime tra Lazio e l'Abruzzo, la legge di stabilità in cui si fa un'ipotesi part-time per gli over 63 per uscire in modo anticipato, la flessibilità, insomma, per l'uscita dal lavoro. Provvedimento che sarà domani in Consiglio dei Ministri. Poi le unioni civili, continua il caos all'interno della maggioranza. Quagliariello, come avete sentito, coordinatore del nuovo centrodestra, rompe con il partito e Alfano dice: noi non tratteniamo nessuno. E poi dopo il sì al nuovo Senato si apre il capitolo dell'Italicum. Tangenti, Giubileo e Cantone, il capo dell'anticorruzione, ferma una gara per la manutenzione delle strade, ci sono nel mezzo delle tangenti anche qui. E poi Marino, che prima di dare l'addio da sindaco a Roma decide per la pedonizzazione dei fori imperiali. Poi il Papa, che chiede perdono per gli scandali recenti a Roma, e padre Lombardi, portavoce del Vaticano, precisa: nessun riferimento al sindaco Marino. E per la TV lo scandalo Auditel, diciamo così, stop di 15 giorni alla diffusione dei dati d'ascolto dopo questo disguido tecnico. Europa 24 notte. Parliamo dell'immigrazione. L'Italia, ha detto Renzi, oggi aveva ragione sull'immigrazione, l'Europa no. Il Presidente del Consiglio Renzi, alla vigilia del Consiglio Europeo, che si apre domani a Bruxelles, rivendica il ruolo centrale del nostro Paese nella gestione dell'emergenza immigrazione, ma non solo. Sarà breve, o perché ci sarà il pieno accordo su tutti i punti in esame, o perché le distanze saranno talmente ampie da non consentire margini di dialogo. Insomma, o la va o la spacca. Matteo Renzi azzarda un pronostico sulla durata del Consiglio Europeo di domani, che dovrà affrontare l'emergenza immigrazione, il tema del terrorismo internazionale, la crisi in Siria. E intanto, come di prassi, prima di ogni vertice europeo, il Premier comunica prima alla Camera e poi al Senato quale sarà la linea del governo italiano in Europa. Il capitolo immigrazione, innanzitutto. Il trattato di Dublino è finito, almeno politicamente, dice Renzi, che rivendica il ruolo italiano nella gestione dei flussi migratori e non manca di bacchettare l'Europa. Il nostro paese, dice, si è mosso nell'orizzonte corretto in cui si sarebbe dovuta muovere sin dall'inizio Bruxelles, e questo è un dato di fatto. A distanza di 6 mesi dal Consiglio europeo straordinario dell'aprile 2015, richiesto dall'Italia dopo il terribile naufragio di 700 nostri fratelli e sorelle nel mare del Mediterraneo, a distanza di quei 6 mesi possiamo dire con molta chiarezza, senza troppi giri di parole, che sulla questione dell'immigrazione l'Italia aveva ragione, l'Europa e il resto d'Europa no. Altro tema al centro del vertice europeo, la Siria. Sarebbe un errore appaltare del tutto la questione alla Russia e ai suoi alleati, dice Renzi, che chiarisce così la posizione italiana. Niente soluzioni spot, ma di ampio respiro. Quella della politica e della diplomazia è la strada maestra che va perseguita. Un chiaro riferimento ai raid francesi in Siria. Se qualcuno immagina di risolvere il problema della Siria dicendo: stamattina mi alzo e decido che facciamo i bombardamenti lì, auguri e in bocca al lupo, ma non risolverà il problema. La Libia sta lì a dimostrarlo. Non si risolvono i problemi internazionali con soluzioni spot, ma costruendo occasioni di dialogo e di confronto le più ampie possibili, partendo da un dato di fatto, che l'accelerazione che c'è nella vita di tutti i giorni, che c'è nella discussione dei metodi di comunicazione, che c'è nella politica, che c'è nelle forme della politica, c'è anche nel nuovo ordine internazionale. Un'Italia centrale in un Mediterraneo cuore dell'Europa è una funzione chiave in Medio Oriente, così che Renzi vede il ruolo dell'Italia. Il Premier parla poi della necessità di una coalizione internazionale contro il terrorismo. Lo puoi chiamare ISIS, ISIL, Al-Qaeda, Boko Haram. Puoi partire dai talebani e arrivare fino all'università di Garissa, in Kenya. Puoi scegliere singole aree di intervento sulla base dell'impressione dell'opinione pubblica. Ma l'elemento chiave con il quale dobbiamo fare i conti è che dall'Afghanistan alla Nigeria esiste un blocco molto frammentato al proprio interno e diversificato, come ovvio che sia, contro il quale una grande coalizione internazionale è assolutamente necessaria. Sul tavolo dei capi di Stato e di Governo dei 28 domani ci sarà anche il rapporto dei 5 presidenti sulla futura governance europea, un tema sul quale Renzi si dice pronto al confronto, ma non se la discussione è cambiare governance per fare le stesse cose che facevamo prima. La politica economica europea, insomma, va cambiata perché non ha funzionato e l'Italia ha ora più titolo per dirlo, visti gli sforzi che sta compiendo nell'ambito delle riforme. Se l'Italia, finita la parte dei propri compiti a casa, come è stato spregiativamente detto da tanti, è nelle condizioni di poter portare la propria voce in questi consessi, non sarà semplicemente più forte l'Italia, sarà più forte l'Europa. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. Europa 24 Notte. In collaborazione con Euronet Plus. Un'altra notizia interessante prima di lasciarci, a proposito di quello che hanno discusso oggi le regioni sulle vaccinazioni ai bambini. Sapete che c'è questa polemica da tempo di chi dice sono pericolosi, chi dice invece assolutamente no, vanno fatte. Bene, oggi la conferenza degli assessori alla sanità delle regioni, nel corso di una riunione della Commissione Sanità, hanno parlato di introdurre l'obbligatorietà dei vaccini per poter frequentare la scuola. Parlano del nuovo piano nazionale di prevenzione vaccinale che si sta scrivendo in questi giorni, anche con la previsione di non ammettere nelle scuole i bambini che non siano in regola con il libretto di vaccinazioni. Bisogna porsi il tema, ma le regioni non vietano nulla a nessuno, ha detto il coordinatore degli assessori regionali Sergio Venturi. Però è un tema molto caldo anche questo. Qui ci dobbiamo però lasciare e ci risentiamo giusto per gli aggiornamenti alle 22:00.